Il terzo anello. Ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Manuela Mandracchia legge Il barone rampante di Italo Calvino. Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di Rondò, mio fratello, sedette per l'ultima volta in mezzo a noi. Ricordo come fosse oggi. Eravamo nella sala da pranzo della nostra villa d'Ombrosa. Le finestre inquadravano i folti rami del grande ilice del parco. Era mezzogiorno e la nostra famiglia, per vecchia tradizione, sedeva a tavola a quell'ora. Nonostante fosse già invalsa tra i nobili la moda venuta dalla poco mattiniera corte di Francia d'andare a desinare a metà del pomeriggio. Tirava vento dal mare, ricordo, e si muovevano le foglie. Cosimo disse: «Ho detto che non voglio e non voglio», e respinse il piatto di lumache. Mai si era vista disubbidienza più grave. A capo tavola era il barone Arminio Piovasco di Rondò, nostro padre, con la parrucca lunga sulle orecchie, alla Luigi XIV, fuori tempo come tante cose sue. Tra me e mio fratello sedeva l'abate Fauchelafleur e le mosiniere della nostra famiglia ed aio di noi ragazzi. Di fronte avevamo la generalessa Corradina di Rondò, nostra madre, e nostra sorella Battista, monaca di casa. All'altro capo della tavola, rimpetto a nostro padre, sedeva, vestito alla turca, il cavalier avvocato Enea Silvio Carrega, amministratore e idraulico dei nostri poderi e nostro zio naturale, in quanto fratello illegittimo di nostro padre. Da pochi mesi, Cosimo avendo compiuto i 12 anni e io gli 8, eravamo stati ammessi allo stesso desco dei nostri genitori, ossia io avevo beneficiato della stessa promozione di mio fratello prima del tempo, perché non volevano lasciarmi di là a mangiare da solo. Dico beneficiato così per dire. In realtà, sia per Cosimo che per me, era finita la cuccagna, e rimpiangevamo i desinari nella nostra stanzetta, noi due soli, con l'abate Fauchelafleur. L'abate era un vecchietto secco e grinzoso, che aveva fama di giansenista ed era difatti fuggito dal Delfinato, sua terra natale, per scampare a un processo dell'Inquisizione. Ma il carattere rigoroso che di lui solitamente tutti lodavano, la severità interiore che imponeva a sé e agli altri, cedevano continuamente a una sua fondamentale vocazione per l'indifferenza e il lasciar correre, come se le sue lunghe meditazioni a occhi fissi nel vuoto non avessero approdato che a una gran noia e svogliatezza, e in ogni difficoltà, anche minima, vedesse segno d'una fatalità cui non valeva opporsi. I nostri pasti in compagnia dell'abate cominciavano dopo lunghe orazioni, con movimenti di cucchiai composti, rituali, silenziosi, e guai a chi alzava gli occhi dal piatto o faceva anche il più lieve risucchio sorbendo il brodo. Ma alla fine della minestra l'abate era già stanco, annoiato, guardava nel vuoto, schioccava la lingua a ogni sorso di vino, come se soltanto le sensazioni più superficiali e caduche riuscissero a raggiungerlo. Alla pietanza noi già ci potevamo mettere a mangiare con le mani e finivamo il pasto tirandoci torsoli di pera, mentre l'abate faceva cadere ogni tanto uno dei suoi pigri «Oh bien, oh alors». Adesso invece, stando a tavola con la famiglia, prendevano corpo i rancori familiari, capitolo triste dell'infanzia. Nostro padre, nostra madre, sempre lì davanti, l'uso delle posate per il pollo, e sta dritto, e via i gomiti dalla tavola, un continuo, e per di più quell'antipatica di nostra sorella Battista. Cominciò una serie di sgridate, di ripicchi, di castighi, di impuntature, fino al giorno in cui Cosimo rifiutò le lumache e decise di separare la sua sorte dalla nostra. Di questo accumularsi di risentimenti familiari mi resi conto solo in seguito. Allora avevo 8 anni, tutto mi pareva un gioco, la guerra di noi ragazzi contro i grandi era la solita di tutti i ragazzi. Non capivo che l'ostinazione che ci metteva mio fratello celava qualcosa di più fondo. Il barone nostro padre era un uomo noioso, questo è certo, anche se non cattivo. Noioso perché la sua vita era dominata da pensieri stonati, come spesso succede nelle epoche di trapasso. L'agitazione dei tempi a molti comunica un bisogno d'agitarsi anche loro, ma tutto all'incontrario, fuori strada. Così nostro padre, con quello che bolliva allora in pentola, vantava pretese al titolo di duca d'Ombrosa e non pensava ad altro che a genealogie e successioni e rivalità e alleanze con i potentati vicini e lontani. Perciò a casa nostra si viveva sempre come si fosse alle prove generali di un invito a corte. Non so se quelle dell'imperatrice d'Austria di Re Luigi o magari di quei montanari di Torino. Veniva servito un tacchino e nostro padre a guatarci se lo scalcavamo e spolpavamo secondo tutte le regole reali. E l'abate quasi non ne assaggiava per non farsi cogliere in fallo, lui che doveva tenere bordone a nostro padre nei suoi rimbrotti. Del cavalier avvocato Carrega, poi, avevamo scoperto il fondo d'animo falso. Faceva sparire cosciotti interi sotto le falde della sua zimarra turca, per poi mangiarseli a morsi come piaceva lui, nascosto nella vigna. E noi avremmo giurato, sebbene mai fossimo riusciti a coglierlo sul fatto, tanto leste erano le sue mosse, che venisse a tavola con una tasca piena d'ossicini già spolpati, da lasciare nel suo piatto al posto dei quarti di tacchino fatti sparire sani sani. Nostra madre, generalessa, non contava, perché usava bruschi modi militari anche nel servirsi a tavola. «So, noch ein wenig, gut!» E nessuno ci trovava da ridire. Ma con noi teneva, se non all'etichetta, alla disciplina, che dava manforte al barone coi suoi ordini da piazza d'armi. «Sitz ruhig e pulisciti il muso!» L'unica che si trovasse a suo agio era Battista, la monaca di casa, che scarnificava pollastri con un accanimento minuzioso, fibra per fibra, con certi coltellini appuntiti che aveva solo lei, specie di lancette da chirurgo. Il barone, che pure avrebbe dovuto portarcela ad esempio, non osava guardarla, perché con quegli occhi stralunati sotto le ali della cuffia inamidata, i denti stretti in quella sua gialla faccina da topo, faceva paura anche a lui. Si capisce quindi come fosse la tavola, il luogo dove venivano alla luce tutti gli antagonismi, le incompatibilità tra noi e anche tutte le nostre follie e ipocrisie, e come proprio a tavola si determinasse la ribellione di Cosimo. Per questo mi dilungo a raccontare. Tanto di tavole imbandite nella vita di mio fratello non ne troveremo più, si può essere certi. Era anche l'unico posto in cui ci incontravamo coi grandi. Per il resto della giornata nostra madre stava ritirata nelle sue stanze a fare pizzi e ricami e filè, perché la generalessa in verità solo a questi lavori tradizionalmente donneschi sapeva accudire e solo in essi sfogava la sua passione guerriera. Erano pizzi e ricami che rappresentavano di solito mappe geografiche. Estesi sui cuscini o drappi d'arazzo, nostra madre li punteggiava di spilli e bandierine, segnando i piani di battaglia delle guerre di successione che conosceva a menadito. Oppure ricamava cannoni, con le varie traiettorie che partivano dalla bocca da fuoco, e le forcelle di tiro, e gli angoli di proiezione, perché era molto competente di balistica, e aveva per di più a disposizione tutta la biblioteca di suo padre il generale, con trattati d'arte militare e tavole di tiro e atlanti. Nostra madre era una von Kurtewitz, Corradine, figlia del generale Konrad von Kurtewitz, che 20 anni prima aveva occupato le nostre terre al comando delle truppe di Maria Teresa d'Austria. Orfana di madre, il generale se la portava dietro al campo, niente di romanzesco. Viaggiavano ben equipaggiati, alloggiati nei castelli migliori, con uno stuolo di serve, e lei passava le giornate facendo pizzi al tombolo. Quello che si racconta che andasse in battaglia anche lei a cavallo sono tutte leggende. Era sempre stata una donnetta con la pelle rosata e il naso in su, come ce la ricordiamo noi, ma lei era rimasta con la paterna passione militare, forse per protesta contro suo marito. Nostro padre era tra i pochi nobili delle nostre parti che si fossero schierati con gli imperiali in quella guerra. Aveva accolto a braccia aperte il generale von Kurtewitz nel suo feudo, gli aveva messo a disposizione i suoi uomini e, per meglio dimostrare la sua dedizione alla causa imperiale, aveva sposato Conradine, tutto sempre nella speranza del ducato. E gli andò male anche allora, come al solito, perché gli imperiali sloggiarono presto e i genovesi lo caricarono di tasse. Però ci aveva guadagnato una brava sposa, la generalessa, come venne chiamata dopo che il padre morì nella spedizione di Provenza, e Maria Teresa le mandò un collare d'oro su un cuscino di Damasco. Una sposa con cui egli andò quasi sempre d'accordo, anche se lei, allevata negli accampamenti, non sognava che eserciti e battaglie e lo rimproverava di non essere altro che un maneggione sfortunato. Ma in fondo erano tutte e due rimaste ai tempi delle guerre di successione. Lei con le artiglierie per la testa, lui con gli alberi genealogici, lei che sognava per noi figlioli un grado in un esercito non importa quale, lui che ci vedeva invece sposati a qualche granduchessa elettrice dell'impero. Con tutto questo furono degli ottimi genitori, ma talmente distratti che noi due potemmo venir su quasi abbandonati a noi stessi. Fu male o fu bene? E chi può dirlo? La vita di Cosimo fu tanto fuori dal comune, la mia così regolata e modesta, eppure la nostra fanciullezza trascorse insieme, indifferenti a entrambi a questi rovelli degli adulti, cercando vie diverse da quelle battute dalla gente. Ci arrampicavamo sugli alberi. Questi primi giochi innocenti si caricano adesso nel mio ricordo come d'una luce di iniziazione, di presagio. Ma chi ci pensava allora? Risalivamo i torrenti saltando da uno scoglio all'altro, esploravamo caverne in riva al mare, scivolavamo per le balaustre di marmo delle scalinate della villa. Fu da una di queste scivolate che ebbe origine per Cosimo una delle più gravi ragioni d'urto con i genitori, perché fu punito, ingiustamente egli ritenne, e da allora covò un rancore contro la famiglia, o la società, o il mondo in genere, che si espresse poi nella sua decisione del 15 giugno. Di scivolare per la balaustra di marmo delle scale, a dire il vero, eravamo stati già diffidati, non per paura che ci rompessimo una gamba o un braccio, che di questo i nostri genitori non si preoccuparono mai e fu perciò, io credo, che non ci rompemmo mai nulla, ma perché crescendo e aumentando di peso, potevamo buttar giù le statue di antenati che nostro padre aveva fatto porre su pilastrini terminali delle balaustre a ogni rampa di scale. Difatti, Cosimo una volta aveva già fatto crollare un trisavolo vescovo con la mitria e tutto. Fu punito e da allora imparò a frenare un attimo prima di arrivare alla fine della rampa e a saltar giù proprio a un pelo dallo sbattere contro la statua. Anch'io imparai, perché lo seguivo in tutto, solo che io, sempre più modesto e prudente, saltavo giù a metà rampa, oppure facevo le scivolate a pezzettini con frenate continue. Un giorno lui scendeva per la balaustra come una freccia, e chi c'era che saliva per le scale? L'abate Fouchelafleur, che se ne andava a zonzo col breviario aperto davanti, ma con lo sguardo fisso nel vuoto, come una gallina. Fosse stato mezzo addormentato come al solito? No, era in uno di quei momenti, che pure gli venivano, d'estrema attenzione e apprensione per tutte le cose. Vede Cosimo, pensa. Balaustra, statua, ora ci sbatte, ora sgridano anche me, perché ad ogni monelleria nostra veniva sgridato anche lui, che non sapeva sorvegliarci, e si butta sulla balaustra a trattenere mio fratello. Cosimo sbatte contro l'abate, lo travolge giù per la balaustra, era un vecchiettino pelle e ossa, non può frenare, cozza con raddoppiato slancio contro la statua del nostro antenato, cacciaguerra, piovasco, crociato in terra santa, e diroccano tutti a piede le scale. Il crociato in frantumi era di gesso, l'abate e lui. Furono ramanzine a non finire, frustate, pensi, reclusione a pane e minestrone freddo. E Cosimo, che si sentiva innocente perché la colpa non era stata sua ma dell'abate, uscì in quell'invettiva feroce. «Io me ne infischio di tutti i vostri antenati, signor padre!» che già annunciava la sua vocazione di ribelle. Nostra sorella lo stesso, in fondo. Anche lei, seppure l'isolamento in cui viveva le era stato imposto da nostro padre, dopo la storia del marchesino della mela, era sempre stata un animo ribelle e solitario. Come fosse andata quella volta del marchesino, non si seppe mai bene. Figlio d'una famiglia a noi ostile, come s'era intrufolato in casa? E perché? Per sedurre, anzi, per violentare nostra sorella, si disse nella lunga lite che ne seguì tra le famiglie. Di fatto, quel bietolone lentiginoso non riuscimmo mai a immaginarcelo come un seduttore, e meno che mai con nostra sorella, certo più forte di lui e famosa per fare a braccio di ferro anche con gli stallieri. E poi, perché fu lui a gridare? E come mai fu trovato dai servi accorsi insieme a nostro padre con i calzoni a brandelli lacerati come dagli artigli d'una tigre? I della Mela mai vollero ammettere che il loro figlio avesse attentato all'onore di Battista e consentire al matrimonio. Così nostra sorella finì sepolta in casa, con gli abiti da monaca, pur senza aver pronunciato voti neppure di terziaria, data la sua dubbia vocazione. Il suo animo tristo si esplicava soprattutto nella cucina. Era bravissima nel cucinare, perché non le mancava né la diligenza né la fantasia, dote prime d'ogni cuoca. Ma dove metteva le mani lei, non si sapeva che sorprese mai potessero arrivarci in tavola. Certi crostini di patè aveva preparato una volta, finissimi a dire il vero, di fegato di topo, e non ce l'aveva detto che quando li avevamo mangiati e trovati buoni. Per non dire delle zampe di cavalletta, quelle di dietro, dure e seghettate, messe a mosaico su una torta, e i codini di porco arrostiti come fossero ciambelle, e quella volta che fece cuocere un porcospino intero, con tutte le spine, chissà perché, certo solo per farci impressione, quando si sollevò il coprivivande, perché neanche lei, che pure mangiava sempre ogni razza di roba che avesse preparato, lo volle assaggiare, ancorché fosse un porcospino cucciolo, rosa, certo tenero. Infatti, molta di questa sua orrenda cucina era studiata solo per la figura, più che per il piacere di farci gustare insieme a lei cibi dai sapori raccapriccianti. erano questi piatti di Battista delle opere di finissima oraferia animale e vegetale. Teste di cavolfiore con orecchie di lepre poste su un colletto di pelo di lepre. O una testa di porco dalla cui bocca usciva, come cacciasse fuori la lingua, un'aragosta rossa, e l'aragosta nelle pinze teneva la lingua del maiale come se gliel'avesse strappata. Poi le lumache. Era riuscita a decapitare non so quante lumache, e le teste, quelle teste di cavallucci molli molli, le aveva infisse, credo con uno stecchino, ognuna su un vignè, e pareva, come vennero in tavola, uno stormo di piccolissimi cigni. E ancor più della vista di quei manicaretti faceva impressione pensare dello zelante accanimento che certo Battista aveva messo a prepararli. Immaginare le sue mani sottili mentre smembravano quei corpicini d'animali.